Era Robin to me, a me io. E da Tomacco Marco. O cosa c'è? Vabbè, e ho fatto c'è. E la salva, a te vada no buon. E poi la maribè. Ia. Lasciata mi finire. Molto furba. Pure, ma se lo mettiamo nella Buonanotte. Grazie, grazie. Sei molto, oh yeah. Lui ascolta il loro, l'ascolta, perché la discarica se la vera, non sono se dove si deve andare, la discarica stanno fatte le case e non vogliono più portarsi la mondezza. Adesso sono loro in questa, siccome ovviamente gli amministrazioni e le cose se ne sono talmente fregati perché gli devono fare solo gli allevati. E di tutto questo come si è successo? Sembra. Cosa anche Vabbè, meglio di no. Sì, vabbè, però sì, quello sì, l'ho preso come secondante. Abbiamo una troppa letto, ce l'ho. Sì, sì, penso di sì. Non gli avevo pagato la recessa. Quella c'era portante per questo. Si capiva nulla. No, poco fa. Non si poteva ancora entrare. Non si fa caso. Vabbè. Ma non si non puoi ancora entrare a parlare, capito? Thank you. c'è il pallo. Il pallo. Ah, mi senti che? Adesso sì, no, era un pochettino alterato perché mi stavano tirando la spalla qui. Già l'ho sentito, solo che noi eravamo lontano, se no gli avevamo litigato già. No, questi che stanno parlando, forse tu li senti. Li senti da lì, questi due stanno parlando da casa, sono arabi, forse lì. Sì, già li sento, passi passi ma già li sento. Spagnola è questa qua, ogni giorno c'è. Già la terza volta che la sento a quest'ora. Mi sa che la sera c'è il balcone. Guarda lì che si fa che dico dai. Attenta signorita, signorita, cambiare il canale, per favor. Ciamba canali, sta subito lo comprendi. A chi in Italia ha questo locale, per favore signorita. QRX, por favor, signorita, QRX, por favor, aquí en Italia, cuestión local. Gracias, gracias, gracias. Se no, que te vaya de godai. Y te pigué de boguro. Se no, prendiamo l'aereo, veniamo in Spagna e ti aprendiamo per le cosas. Tutti godamoli. O ti accarezziamo. No, io andavo a vedere se ti mangio. Oh, chiamiamo la sorella di Falcone. Luca, Luca Poggiuni. Luca Poggiuni, non parli adesso? 4, 3, 6, 4. Il numero del telefono, da. Luca Dilinguende. Ma buono. Oppure sembra lui si cazzo, non manca la Falcone. Manca, non viene, quando c'era lui, diciamo che le, anche se era rompiballe, ma c'era sempre un po' di gente al barattino, ma se non mi si via, se li chiamare. Cazzo, mi è importante, raga. Manca sì. Ma quel piccione mi sa che ti ha convento, me. Beh, perché? Tu vieni qua, signorita, a Daniele, la sua Daniele conosce la sorella. No vabbè, comunque a parte gli scherzi, cacciò venuti lui ha sbagliato i coglio, ho così incazzato. Ma non abita la socio, mi badi no? Non abita più là dove era prima. Qui andiamo a Peroni, ma non così è Natali, Peroni. No, ma non ho capito, lo sai adesso che non sto facendo? Ha detto prima, mi stavano dicendo, hanno detto che prima si chiamava Peroni Falcone, e poi andiamo su Falcone. No, un altro azzurro si chiamava. Un altro azzurro. Un altro azzurro. E Falcone gli hanno messo, per quale motivo? Ma mica, perché non abbiamo mai un altro pacco. Sicuramente qualcosa gli è rimasta, o si è barattino. Beh, se l'avrà, non parla più, cioè. Che le chiede? Che si fa il gioco della calzetta, e adesso è grande questa. Io prima parlavo con ciò che si barattino, io prima ce l'avevo. E come facevi il mio balcone? Che le chiede? Che è arrivata ancora, non si trova, magari dirai chi l'ha fatta, Cosa spero di lì? Anche lì ha un exit. E dipende da quanto mi dai tu però. Quanto è giustissimo. Ma fa culo. Attento, attento, Salvatore Barra Gringo. Yeah. ricordi? Come dicevo, quanto è l'antenna grande? Vediamo questo con quella. Non si può salire, sapete, è una cosa tra la cabina. Questo era magari potuto fare un bel piano di mappa per le riflettenze e mettere la mappa, magari c'è un piano. Vabbè, il piano di mappa glielo faccio per il tetto della cabina. Male mi dice. Vai, prova. Vai, 1, 2, 3, prova, cava gara. Un po' di difficoltà, vai, 2, 3. Tu magari mi senti bene, da problemi, ma io quando ti abbassi di difficoltà, ti prendo il corretto. Quindi dico quando sono di difficoltà ti assicuro. Ce l'ho a 5. E scappa, va bene, e io sono già nel viottolo di casa. Sono entrato nel viottolo di casa, quindi è... Dentro il viottolo di casa sono già. E scappa, ragazzi. Tu abbiamo arrivato qui, ragazza, guarda, sta arrivando, fai fai. E sono... Alerta! c'è, quando non c'è non c'è. Ah, Bulgaria, quando vi apri la Bibbia tu non guardare. Non guardare niente, fai come Carlo Spagliero. Spagliero, magari c'è Spagliero. Spagliero, beh, Gianni, do, come si chiama? Gianni, non è solo me. È 30 anni che non riesce a pronunciare la R. È di sempre Spagliero. Ciao Spagliero, carissimo. Diciamo che veniva un'altra, ma non altro veniva. Dico, è Spagliero. Spagliero. Entra la mi giochi a vedere si fa vita. Prova a chiamarlo. Detto Spalviero. Carissimo, per il mare. Dimmi carissimo. Oh, carissimo Spagliero. Siamo 40 anni con l'altalino, ma lo sai che ti ha ubriato il baroguro? Oh, in due in qua siamo, le prende Spalviero e pigliava lui, le prende l'altalino e le prendevo io. Ah, è che voi ormai siete abituati, ma negli anni 90, 96, 98, con un altalino, cazzo, non mammento sempre, caro, le avevo detto l'altalino. Una mattina aveva avuto problemi con qualcuno, adesso mi ricordo, forse anche morto. Vanni Portanova, mi sembra che anche morto. No, Vanni è vivo. L'amico di Vanni, normalmente mi si chiamava, cazzo, io lavoravo sempre dove sono, ero il primo periodo e viaggiavo dove sto viaggiando, appena, quindi mi fermavo la mattina a Brescia. E ho trovato degli amici perché io parlavo molto sui canali 5, la Carbonati, ero sempre un casinista finito. E la tale aveva avuto, ma così un diverbio, un chicchio, no, una montagna, ma te temi, Pierpa, una montagna. Arrivo a prendere un caffè, e io ero intorno ai 90 kg, 92, 93 kg, un bello tarchiato, un grande rompicoglioni. Arrivo alla Brescia a prendere il caffè e ho trovato gli amici. Oh, vabbè Spalviero, cazzo, gira lì. Ah, tu sei Spalviero, cazzo, e io sono Spalviero, anche io ce l'hai conmigo. Cazzo, sono arrivato un dei, che scelto? Sciogo, no, ferma, alti, ragioniamo, ferma tutto, gli ho detto, ma Spalviero chi? Oh, sì, Claudio Spalviero, e io sono Claudio Spalviero, l'altra lì mi ha detto di droppico, ah, ma io, vai, bravo, vai, guarda, stai sbagliando tu, perché io non ci sono, la mattina presto non ci sono, io entro a quest'ora a lavorare, no, era di sera di mangiare, non ci sono io, comunque, io sto andando a lavorare, se ci sono problemi ne discutiamo, non è che, vediamo, insomma, risolviamo il problema, che non mi pare di seguire. Cazzo, mi è baciata 2, 3 kg, 4 kg, non me la metto. Alla fine parlando con Natale, mi aveva raccontato questa cosa, ma la bagassa tua, tu ci hai chiamato a fanculo a Cosio, l'amico di Vanni, cazzo, e si era quella da me. E poi Vanni è stato anche mio collega di lavoro, quando eravamo artisti tutti e due o cose, con l'amico suo, ma cazzo, con Fiocca. Esatto, sì. Ma era l'amico di Vanni, guarda che è morto, c'era il 30° da poco. Porca miseria, ci picchiano, me lo ricordo. Era un grande, perché poi aveva capito qual era il problema. Dicevo, no, ma effettivamente no, l'accento non ero tu, io qui e là, no, tu c'è mai di voglia che non sono io. Tu sicuramente hai avuto problemi con la Tenalfa 1. Ma non fa la voce tua, non fa la voce mia, si assomiglia, però se tu sei attento è diversa, ho detto, non è così. No, ma non si attesso niente, qui la mai tu solo non rompi le balle, eccetera, eccetera. Cazzo, devi qualcuno di a me, passa via, Giulì. No, ma io lo dicevo sempre che ero io, e se lo sapevo c'avevo la voce uguale, No, quando in quel periodo la tassa ti ricordi quando usavamo tutti e due la stessa radio era un casino, io entrai a dire buonasera a tutti, ciao Natalia, appena il culo, Claudio, ciao Claudio. Sì, a me lo stesso mi cambiava un sacco di volte per te, ma sono Claudio, guarda che sono Natalino io. Che da poco è successo, non mi ricordo chi è, pochi giorni fa, ho sentito, mi chiedo ciao Claudio, sono Claudio, sono Natalino. Con quelle ho noi sono a Torino più di 30 anni. Però c'era un periodo che avevamo proprio le stesse radio uguali, modificate, perché le abbiamo comprate assieme, portate dalla stessa persona e modificate uguali. È nata questa timbrica micidiale e quindi eravamo praticamente gemelli. E molta gente ci scambiava, però non abbiamo avuto problemi. L'unico problema che ha avuto è un Ghisciu, che poi quando ha capito, e allora tocca a te, te lo mandano a Ghisciu, quando io dico, cinque, vivo, cazzo, mi mandano a far cura, fa bene, perché tu sei un cinque, devi avere rispetto. Non voglio poi farlo abbandonare, lì. Siamo diventati molto soldi anche al funerale io. Porca miseria, non mi ricordo cosa, c'era il tredicesimo da poco. Sono tredicesimo, io avevo ancora i furgoni, e infatti mi ha chiamato Vanni, che era lì a 3S, e mi aveva detto, Crami che è molto, cazzo, non me ne ammetto. Suonato anche al funerale, figurati quanto lo volevo male. E niente, lì insomma, non è successo niente. L'unico problema che ho avuto, poi non c'è stato mai niente con Natalizio. Io avevamo quelle radio e usavamo alla grande, andavamo alla grande, va bene, è bello guerriere. Che ho visto, mi sta ascoltando. Facitoci. Figlia. Tutto a posto, mangiato, bevuto, trombato, niente. Figlia, tutto. Anche trombato? Sì, ho la tromba, un bacio. Ma ti hanno trombato? No. Negativo, ancora niente, non mi hanno trombato, ti volevo trombare io. Fatti trombare, cazzo, da qualche bella tifa, cazzo. E la carina. Allora brutta, faccia che ti piglia. Ah, no, guarda, no, siccome c'è un amico non te posso mandare. Perché c'è la banda, la nuova banda musicale, no, adesso c'è la nuova banda che hanno fatto il sasso. E invece tutti chi si rimane a tromba. Vi uno che diceva un bifalo ed è molto. Ma io ti dice, vuoi lasciare un bifalo? Ma laghi sta tromba, cioè che. No, va bene. Dovrei per un amico non va bene. Se c'è la tromba va bene, cazzo, ma un bifalo già diventa troppo musichiere. Sono ci rinete tu, a voi andare tu. Lì nella Villa 6, lì a Capo Falcone, che c'è una perdita nel lavandino, gliela sistema. Ah, poi c'è problema, non si preoccupi, vado io, guardo la bandina, aveva bandina, tattatura, cazzo, c'è un campanello e se c'è la ghita, distico pieno mi, agosto, pieno, mi sembra che era dopo Ferragosto, non mi ricordo se era dal 15 in poi o dall'1 al 15, nel periodo di proprio di Ferragosto. Allora ti sto parlando dell'81, quindi quando a Capo Falcone c'era Corso, Sormani, Bellugi, quindi tutta la parte Capo Falcone era come oggi, poi c'era la Costa Smeralda. E oggi c'è il campanello, che poi vedo la campana, e la preghita, vamos! E a me, oggi mi ci ho fatti luci, e ho messo che la villiera, tutta la giura ha fatto. Oh no, era in mutande con un triangolino davanti che diceva tutto il mallo popolo e a petto nudo. Ah, gli dite che ci si arromba un muro e faccia pure un tramezzo. Scusi, signor idraulico, sì, prego, ci accodomi. E non si è nuda, non si è manco vestita. Allora sai che invece di pigliare la giratubia giù mai piglio la bezzona, di cantero. E in compenso la bezzona è la figlia da Ida. Che realtà ragazzi, che schifo. Cesse. Una cosa allucinante, guarda, wow, veramente vergognoso. Vera, c'era un ragazzo con me, mi aiutava. Ma non io me ne vado, io me, ma che cazzo mi sta scendendo, ho sudato nelle orecchie, non ti preoccupare, poi tanto te ne vai a stampare un guru. Questa è la Jeff, me la mette qui, me la mette lì, via. Signore, non si preoccupi, no, era sempre mutande e senza reggiseno. E noi con questo tubo l'annettore, sappende, vende, torrende, oi. La manicolina mi stava venendo, la manicolina. Non sapevo più da che punto uscirci. Non sapevo più da che punto uscirci. Anda a consegnare una bevanda di roba questa signora, no? E tu entra, e assolutamente era raccontato di una fattività. Va da questa signora, che era una vestita e oggetto, a consegnare questa pedagna. E domanda una signora, dove gliela metto? Chi da dire a bella domani, che altri mi hanno dato a me, ho fatto una gara. Le toppole, dai. Allora sì, c'è stata una così. E quello, sai, ma non è da perdere, non è che alle vergogne, non hanno vergogna. Io mi ricordo anche quando era Sassari, non è che mi è capitato di fare per un anno il caposcala carbonati, mi sembra al terzo piano ci abitavano delle ragazze universitarie. E a volte capitava, avevano qualche problema, lo sapevano, io ero molto disponibile, ma a livello così, cioè ma tranquillissimo, perché sai, io ho già sposato, mia figlia era piccola, quindi non avevo nessun interesse di fare casino. Però, atto diavolo, mi citofonavano, c'è un grano, non è che siete, mi si è rotto il tubo, vabbè, dai, già sto scendendo. Scendevano, tutti i gatti, mutando il reggiseno, E così tardi anni, non è che si cambiavano, Ma erano ragazze di 17 anni, 16 anni, però sai, atto diavolo. Amico mio, la carne è carne. E lui? No, io già, a farmi l'allaccio. Non fa vedere in tre? Beh già, non mi credi dietro, no? Ti è mai capitato a te? Buonasera. E diciamo che facendo le consigliere te ne capitano tutti i colori e blocchiamo l'acqua. Infatti è quello, facendo consegne, non è che lo fai per male, perché a me è capitato andando al volo sempre, e quindi quando consegnavo anch'io mi capitavano queste cose, quando lavoravo a Roccaruia, che era un'attenzione come ho detto prima, mi capitava di andare a fare degli interventi lì a Capo Falcone e Tabrina e Raiana a Gattone di Meduri, e a una glielo avevo anche detto, se no non è che si può coprire, e c'è caldo, anzi c'è caldo, ti presenti così, io non è che so un marziano. Attenta Bisetta, perché io ti faccio l'allaccio, A me una volta sono venuti, stavo facendo il bagno, è venuto a aprirmi con l'accappatoio ed era mezzo aperto. Quindi hai messo tutto il malloppo. Magari non se ne resa conto, mentre mi stavo facendo il bagno, la pugginita, insomma, sono uscita dalla vasca perché mi immaginavo che era lì. Allora mi è capitato anche a me una volta, A bomba? Era molto bello, Ah, e tu subito? Poi discorsi impegnativi abbiamo. E sono le live, tanto meno che si possono fare questi discorsi, ma siamo abbastanza puliti. È che sono delle cose che possono succedere, purtroppo uno che lavora capita, non è che non capitano. Lugarie, e tu allacci niente? Ci andiamo a Banò, al Busciuvo allacci. Buonasera, buonasera, ciao Luca e ciao anche Antonio. Me lo immaginavo anche tu che arrivi, quando senti cosa grassa, tu, uia. Ma a me mi ha detto che ti è capitato anche il ginocchio che ti abbia aperto, anche i sardini, Sì, più di uno magari ce ne sarà stato, ma io non me ne sono accorto. A me invece sì. Disabili no, A me mi è capitato pure l'orecchione. Metto una metta lì, mi metta là. No, fa una cosa. Poniti dalla giura che mi gioca a denti. Ascolta, non hai mai conosciuto tu Peppuccio? Peppuccio, oh mamma mia! Ma sai che quando ero ragazzo che stavo cominciando a lavorare col dottore, stavo scendendo in piazza perché stavo andando a prendere il treno. E allora la stazione era quella vecchia. Stavo scendendo in piazza e questo qui mi ha perseguitato, mi ha detto ciao bel ragazzo, ma sai che io c'ho una barca grande, se vuoi ti faccio fare un giro, questo e quell'altro, ti tratto bene, ci faccio una bella cenetta, ho detto ma sta via. Cioè a me mi è capitato, te lo dico perché è morto e non ho problemi, non me la fotte nulla, tanto lo sai che è froscio a Portodoro, che era froscio. L'avvocato Polverini Dondo, conosciuto l'hai tu, quello che c'era in piazza? E descrivi, non lo so, magari lo conosco. Sì, siamo avvocato Polverino, da nome non me lo ricordo, cognome, forse era il nome e cognome, Polverini Zonda, non me lo ricordo. Aveva lo studio lì dove c'è Giorgio, dove c'è adesso Giorgio, in piazza, sopra, lì. Avevo lo studio e avevo una stronzata, che era un avvocato civilista. Me l'aveva letto il macellaio che c'era al corso, Mannoni. Mi ha detto, Pasquale, stai attento perché dice avvocato è mezzo broscio. A me non ha fottuto da me, va giù in contravenzione, così, vado al rapporto, poi se la vuoi contestare perché era un civilista del comune, insomma, dico, ma ti sto parlando di, io ho 49 anni, quasi, a novembre, avevo, sì, 90 anni. 22, forse 20, 22 anni. Attendo, è l'avvocato, sono campanello. Dire, sono avanti, ho detto, devo portare la travenzione del comune. Ah, salga, salga. Pazzo di buh, ah, tu. E vero un altro bugiato. Ah, sì, tu, buh. Ho detto, ma tu ci sei prima. Devo entrare, ma devo aspettare. Ho detto, vabbè, è entrato prima. Ah, si tende fuori, ma c'era un androne piccolino, quindi la porta, se ti sai, quelle sedie che metterò fuori dall'androne, si mette il tuo bezzino, e ti dico, oh, cazzo, ma cazzo me la fanno, ha detto, beh, trombato ce l'ha. Ma tutto a posto? Sì, sì, tutto ok. E mi ha detto, mica se ascolti a lui quello che ti dice, ti fa lo sconto, allora non ci sconta nulla, non ci paga nulla, io non dico la dopo che mi gioca a lei. E mi aveva fatto delle proposte allucinanti, mi ha detto, mi faccio, ma era grande, mi dietà, aveva. Se no, guarda, io ero un ragazzino, lui minimo aveva una sessantina d'anni allora, quando io ne avevo 20 ne aveva già 50-60, una cosa allucinante. Ma gli disse baragguri che non veniva a dirlo, E questo ragazzo se l'aveva trombato per fare non so che cosa. Passa via. Perfetto. E Dio. Per cui ci hanno detto che è un bel ricco che disegna, che fa, che ti dà soldi, ti tratta un bel bene, ti fa le cene di quelle romantiche sulla barra, che Nandi. Quello si chiamavano Peppuccio, però si chiama Crucio Sanna ed è morto, i fratelli Gino, non so se tu l'hai conosciuti, si è fatto ricchi con quello lì, oh già. Ma lui cos'era? Di Sorso era? Cinco residenti a Portorese da una vita. Perché mi ricordo che c'aveva dei parenti a Sorso, perché poi mi sono informato chi era, mio collega mi ha detto, tanto che deve cuccio, mi ricordo che ha rimorchiato. Ti rimorchiava lui, chi le piaceva rimorchiava. I fratelli Gino sono fatti di grandi con lui, veramente. Angelo e cosa. Sono fatti grandi, però aveva mai dicevuto, era una persona che era un spedizioniere ai tempi di Acciaio Padovani, prima di avere la ditta, stava molto bene, stava molto bene. Abitava lì al Cristo Risorto, a Balai, abitava lì, c'era una bella casa a Balai. È morto, mi sembra, 5-6 anni fa. 5-6 anni fa. Non ha dato voti, Ne ha dato, ma non ha dato voti, burro, Era bisessuale. Attivo e passivo, il problema era quello. Che tu gli devi dare, ma poi te la doveva dare lui. Passa via. Ah, tu che bombola è? Sono a posto. scendi, mi lo sai. Oh, non sta crescendo? No, sempre in casa. Comunque già, mio fratello mi ha spiegato quell'handicap che noi sappiamo, di zia, della madre di Ciro, come dici tu, è la matrigna, perché la vera madre di Ciro, è zia Filomena Sciosciolo, madre di Gavina, capito? Tant'è vero che lui non è Valente, Ciro non è Valente, ha un altro cognome. Perché abita a casa di Zia Grazietta? Sì, Zia Grazietta se l'ha presa quando Zia Filomena praticamente si è separata, capito? Lui è andato a vivere con questa donna e l'ha riconosciuta come era piccolino Ciro. E Zia Grazietta era appena durata la lavoranza. Era appena durata la lavoranza, ecco perché lui è nato in Francia, con la francese, eccetera. Però mio fratello mi ha raccontato tutto. Lui c'ha un altro cognome, ma non me lo ricordo. Se me lo ricordo, me lo insieme stasera a mio fratello. Se me lo ricordo, te lo dico. Però lui è Zia Grazietta, la matrigna. Ciro proprio. È il figlio di Zia Filomena Sciosciò. Quindi è il fratello di Gavina, capito? Ecco, perché io vabbè pensavo che fosse proprio un figlio, anche perché vive in casa con lei, eccetera, eccetera. Ma è guai, mio fratello era piccolino con De Grazietta, è andato a piccolino quando via Filomena, ci si ti ricordi che abitava vicino a casa, in via lì, via Alfieri mi sembra, era separato. Siccome lui era talmente piccolo che è andato a finire in questa famiglia, perché è stato riformatorio lui, e quindi l'hanno adottato, Zia Grazietta l'ha adottato, però lui è Valente. Però nel campanello ci sono scritto i due cognomi, Valente, aspetta, non mi ricordo. Vabbè, anch'io il mio campanello c'è scritto il mio, quello di mia moglie è un altro nome pure, non c'entra niente. Perché il vecchio padrone di casa riceve ancora la posta qua, quindi per le raccomandate abbiamo accettato così, ma non è un problema quello. Può essere che derivi sia il nome del. Ma lui è Valente. Qua. Te l'ho detto, ho insistito perché io sono nato lì già, li conosco una vita, no? Ciro era piccolino, tutti i fratelli, i nipoti, tutti i parenti di Gavina, li conosco, fatti a Tasco, io ho un handicap, con un carissimo amico, mi devi spiegare qual era il problema. Ma è tuo Ciro, te lo dico io qual è il problema. Così, me l'ha detto. Mi ha detto tutto, quindi lui abita lì da Zia Grazietta, è lì perché se l'ha fatto grande Zia Grazietta, è come un figlio giustamente, però lui non è il figlio di Zia Grazietta. Io l'ho conosciuta così, formata la famiglia, capito? Perché ti stai dicendo questo. Zia Grazietta io la conosco una vita, avevo 19 anni quando la conoscevo, perché faceva le pulizie da noi. Infatti Antonello mi ha detto sì, quella mamma faceva le pulizie e non mi ha detto dove, però mi ha detto quella mamma faceva le pulizie, poi è successo questo problema così e così. Ciro, quando lui è tornato alla Francia, che era piccolino, la situazione familiare era già messa male, quindi Zia Filomena non voleva più nessuno, tant'è vero, io mi ricordo questo particolare, quando abitavo lì in via Cavour, che Zia Filomena era lì, a fianco a mamma, viveva già da sola, ma io avevo già 14-15 anni, capito? E di figli c'era solo Gavina, che era già grande, che mi pare sia la più grande, e abitava in via Torre Sacchi, giù, in fondo però, verso dove c'è la Rosa dei Venti, dove c'è la pizzeria giù. Poi si era trasferita su dove c'è il barbiere, proprio all'angolo tra via Principe di Piemonte e via Cavour. Ho capito. Però te lo sto dicendo, perché... argomenti che la vecchia. Infatti non riuscivo a capire, tu hai detto, no, Viglione, no. C'è questo handicap del... di Ragosa che praticamente se l'ha fatto grande, quindi vabbè, tutto lì. Te lo volevo dire l'altro giorno, proprio l'altro giorno siamo visti e poi mi sono dimenticato. Luca, Natalino. Tu accendo la televisione e ti vedo. A me, è come se mi vedi, mutandi. Ah, tu ti sei dato la voce e ti ho messo un viso. Ah, vai, Fabri, non ci ho mai visto, sono il perizoma. Era in bianco. È stato il luminare. No, ho fatto poco fa la pipì all'aperto, non le piante. Ok, ciao Claudio, ciao Gianni, quello che c'è. Ciao Maschera. Tesoro. Soriaro, va bene che la mia padre di broci, ma... Ho fatto sedere l'adrenalina, prima avevo Falcone, adesso non c'è più. No, Falcone ce l'avevi tu, un marito a Cuglia. No, io me lo ricordo, dai, mascherato, ti voglio bene, perché io ti amo. Ah, non me l'hanno detto. E Daniele Snoopy. Oh, a parte Daniele c'era Coso, c'era Marcolino Giotto. Ah, il Marcolino. Veloso, sì. Condor. C'era anche Marcolino Condo. Marcolino Condo. Faceva il giochino a Castellieccia di spagnolo. Mi ascolti di Vasia, Antu? Ah, mi ascolti se ti gratto il petto allo spagnolo, grazie che tu, ah, vai di lì, vai di lì, ah. Vabbè, un giorno trattano siciliano, cazzo, stanno parlando, gli ha fatto, ascolta, ti posso fare un giochetto, a siciliano gli ha detto, che qui, qua si usura. La Sicilia una volta poi l'ha messa a rispondere al telefono, l'altra volta facendo il gioco della carta cliente. Salutiamo a me, d'accordo Falco, mica io se scendo la carta te la io al collo. Sì, è la volta che io non è che lo conoscevo bene, lo sentivo, lo sai. Però pensavo fosse una persona che avesse problemi, così, e adesso me lo porta a fare un giro, quindi. Se ci viene Falco a fare il giro, sì, dopo devi venire qua perché mia madre se non mi va. Vabbè, l'ho chiesto, signora, guarda, se lo fa venire, tutto vergognoso, non parlava, poi in macchina non diceva una parola, che bello, povero, allora cosa mi racconta? Sono un po' vergognoso, dove devi andare? Stavo a farmi la macchina, allora poi dottore si scendendo alla cantoniera, c'era quel vascone dove lavavano tutte le macchine, andavo lì a lavare. Aspetta, vado a farmi la macchina, prima mi dice doppio il numero, posso salutare lo stesso, va bene, la voce a tutto punto. Poi mi giro e me lo vedo con gli occhi attaccati al palabretto. Ho detto, Paolo! E lui, con la sorrisina. Poi gli ho detto che stavo tornando, a me non dire che nessuno che ti ha portato in giro, va bene. Sono partito poi accompagnato, dove stavo andando e sento, ridendo. Che sta vedendo fuori glielo chiesto, lo sapete chi era in macchina con doppio zoom tutato grazie a lui signor Paolo, che contento lo pensate io che è una sedina nuda e se non ho mai incassato Antonio Cavazzacchi. No, di più Piero Drago. Piero Drago tutto calma, io da parlo adesso le tre cazzate le mette, lo sappiamo che si è maleducato, quindi adesso devi chiudere. Poi si incazzava, diceva il numero, dove abitava, tutto quanto. Io c'ho anche un nastro registrato all'epoca che si incazzava veramente. C'è un MP3. Per quello di Piero Drago da già appetti. Io Paolo chiudi tutto, lascio il telefono a tua madre. Hai capito? Ti faccio spinnare il telefono, hai capito? Ah, si cazzava a livello di infarto, eh. Ehi, ma che... Infatti un po' di volte andavo alla madre, spiritoso, perché fai arrivare mio figlio così che gli fa male? Siamo già meglio, questi giorni, l'altro giorno siamo scesi al Ghero e ce la siamo ascoltati tutti i due miei pizzeri. Lasciami una volta, io portavo lì quando c'avevo i trasporti, portavo lì, facevo loni lì in quella zona e poi facevo l'oro, le portavo i dischi per tagliare il granito e un giorno, siccome avevo il furgone, avevo un Ducato con la tele baracchino, sono stato all'ufficio, ho firmato tutto, ho lasciato la busta perché erano dei pacchettini, proprio delle cose piccoline, con dentro c'erano questi dischi Alvidian per il granito. E mentre stavo uscendo mi ha chiamato questo ragazzo, mi ha detto scusa, ha detto sì dimmi, ha detto qualche problema, non vanno bene, c'è qualche resa, no, mi ha detto ma c'è il baracchino tu? Ha detto sì, ma parli anche con mio fratello, con tuo fratello, tu chi sei? Ha detto dipende, io parlo con tutti se capita, sono il fratello di Paolo, oh. Ho detto sì. Allora, da parte mi ha chiamato, ma ascolta, fate una cosa, tutti insieme, non lo provocate, si fa 105,6 al giorno. Guarda, anche a me, non sono andato a prendere in mano. Ha detto, guarda, è una cosa allucinante, si sta distruggendo, una cosa... Ha detto, ma scusa, non ci governa, no? Si fa vedere come che si fa della sega, vuol dire che è froscio. E perché così è convinto? Ah, tu lo vedi, guarda che quel ragazzo si stava distruggendo. Mentre parlava al baracchino lo si masturbava, cioè era una cosa allucinante. Io mi ricordo scene proprio mega galattiche, ma davvero, davvero, cioè non sto scherzando. Si distruggeva, a me la madre una volta, perché poi io andavo spesso lì, quindi mi vedevano e anche la madre me l'aveva detto, dice ma guarda si può fare io e cosa posso fare, io ho detto guarda io come Paoletto ci parla ma ha un rispetto reciproco perché io non lo provoco, lui non mi provoca, quando rompe le palle io lo zittisco e lui sta zitto perché sta zitto, la verità a me non mi ha mai rotto le scatole mai, cane tradia, oh a Shane Bolè, Carlo Sparviera sono, oh ciao grazie, aiuto avviati, non rompermi le scatole perché sto scendendo, va bene, allora se ne andava, a me non mai rotto le scatole, mai, la verità, si attaccava con Piero, con Tonino, perché lo provocavano, ma... Quando poi faceva i yoghi, chiedo a fare yoghi, si masturbava, si faceva appetti, allora facevo di appetti, anzu, bucava il muro. Dillo a Stefano, principe, a vedere quando la sorella ha comprato la casa, com'era quella casa, che ha dovuto fare tutti gli intonaci nuovi, i buchi faceva, anzu, i buchi. Era per lui era allucinante, tutto quello che lui appoggiava, trombava, vamos. E Antonio, una volta appoggiato in macchina e gli spiegava i denti, si toccava, e mi oh la fisce, toccate, cazzo, ti butto dalla sportella, e lì. Ha fermato la macchina Antonio, ha buttato le becche a tutto vola, se stava sempre trombando. Non è riparato, è una cosa, ma no, perché però in 27, gli anni che abbiamo vissuto io, Gianni, Fabrizio, Natalino, forse tuo padre, non lo so, ma gli anni che abbiamo vissuto noi, se mancava Falcone non ce n'era per nessuno, era una cosa allucinante. Sì, lo so, no, in quegli anni lì già ce l'aveva stato, io a Busia, infatti lo sentivamo noi, qualche volta io lo sentivo, ridevamo sempre, faceva solo ridere e basta, però anche con Babbo me l'ha detto che no, proprio un gifava via. Cos'è l'unico che non ha reddito più Falcone, Galerio? Ve l'ha detto di Luca, con Stefano. Con Stefano ha reddito più, ha già bagoce. Anche Stefano ha rompito le balle e farà la ticcata, non vede, ha pigliato un cannavo, ha leato un'antenna, ha cantato la macchina e ha saltato l'antenna. Un bel disegno che non è vero, invece è vero. No, non è vero, cazzo c'è vero, quello io, cazzo non è vero. Ma bene, ho sentito anche gente e cose, gli dice non è vero, invece è vero perché non vedi niente l'usato. Ma non è vero, perché il muro non era molto alto dove lui c'era l'antenna, praticamente lui abitava la prima casa che ha avuto, lui abitava dove c'erano gli uffici di Aroni e lui abitava attaccato e c'era un muro da 3 metri. Te franzata, ha liato il cazzo, la macchina sta saltando l'antenna, cazzo non è vero. L'antenna, e poi non mi sembra che poi ce l'ha tornata a rimettere, o dalla volta non l'ha più rimessa. No, l'ha tornata a mettere. La strada punitorra. In che anno è che ha messo? Non lo sapete. Non me lo ricordo, se c'è Luca te lo può dire, ma io non me lo ricordo che anno è perché mi ricordo che ero, forse ero a Cagliari, io scendevo una volta alla settimana, due volte alla settimana, se ero alla Saras. Non mi ricordo, ma ero ragazzo comunque perché stavo appena iniziando a lavorare. E quindi era periodo caldo, ma caldo a vero, quando proprio cartole scopposte, i scene 4 camionette, la lì patricati, era un terrore a Sassari, un terrore. Sì, ma è rimasto che mi sia fatto in tutta Italia, oltre che a Sassari. Però, mi hai mandato a Milano. Lui, cosa faceva? Non c'era il baracchino omologato, non va via nulla, va via l'antenna, è un baracchino omologato, ma accanto la posizione che aveva era micidiale per i camionisti, perché lui stava dalla mattina alle 6 sul canale 5, cazzo rompeva le palle a tutti, allora voglio vedere la carica, cazzo non hai idea tu, ma non c'è la zona che carica tu, ui, cazzo. Comunque per era una posizione incredibile, cioè avevo un braccio omologato con quell'antenna lì era bassa, l'ascoltavo cazzo in tutta la Sardegna, io cazzo andavo a Santa Teresa, a Palau, cazzo lo sentivo da tutte le parti, è una cosa incredibile. Trovati Fabri, perché l'antenna era bassa, non era alta, era allora la prima, una di quelle prime Mantova che erano uscite, non mi ricordo se era Mantova 1 o un prototipo della Mantova 1. Cazzo, Anto, lo ascoltavi da tutte le parti, mica carica, è una posizione micidiale, dove lui, lì dove c'è Aroni, proprio di fronte alla motorizzazione, quella zona, prende Alghero, Portatore in pieno, c'ha tutta l'apertura verso il Campidano, si chiude con un tubo da 6, 7 metri, 8 metri, ui, lui con 5 watt rompeva le palle a tutta la Sardegna. Ora di capo, capo viaggiavo, lo sentivo in tutta quella zona, è per quello che è tutto conosciuto. Non sto scherzando, c'è Fabrizio, c'è Gianni, chi l'ha conosciuto ti sto dicendo che Paoletto rompeva le palle a tutti, poi fa gli abbassaggi mega galattici, non aveva neanche il sovramodularlo, non c'era scritto, perlomeno da me a Carbonazzi, che io ero alto, e a lui ce l'avevo sotto perché lo vedevo, io canica ce l'avevo davanti, come ce l'ho davanti adesso, tu immagini di ciò che va, Si entra Paoletto, si entrava Paoletto, ho finito di parlare io. Mi ammazza, mi disintegra. La volta ho cronometrato, è stato 32 minuti parlando, importante. Benissimo, una volta, Paolo, ma che finale vai? Ah ah, e a me me li ha fatti, come ti si chiamava, chi te era Umberto? Ma c'è una baraccribata il muro. Oh, Marco, non ha mai bruciato un baracchino? Ah, che mi hanno detto che ha cribato un bel baracchino. Verranno infatti cribà, verranno infatti cribà, non ha mai cribato Paoletto e baracchino. Oh! Cavolo, ma anche alimentatore a rete l'aveva avuto a tenere tanto tempo così da portante l'alimentatore e scaldami. Beh, un alimentatore della ZG da 15 ampere, te lo dico perché io l'ho visto, io ci sono andato a casa sua, capito? Me l'ha fatto bene la madre a me. Mi ha detto, ma non si può fare niente per questa cosa, cosa posso fare io? Guarda, il mio furgone c'è la stessa roba e avevamo lo stesso baracchino. Poi si aveva comprato un LMS 200, allora via, mi pare 8 watt, 10 watt, mamma le durchi, con un bip. Ah, adesso ti metto il pipì. Una scena. È una zona micidiale quella, è micidiale. Belle zone perché sono basse, però aperte, capito? Io ti posso dire che ero a Carbonazzi, avevo una zona micidiale perché era favolosa per le aperture che aveva, però qua, con la posizione che ho, ricevo tutto ugualmente, non mi manca niente, capito? E poi lui, che è più basso, è più aperto, perché in queste zone magari c'è un palazzo o stacco, lì non è venuta, lì è già zona industriale, quindi è tutto aperto, aveva Monte Oro davanti, arrivi a Alghero 9.20, io la carbonata arrivavo 9.10, fatti un conto tu. Era con pochissimi watt, è allucinante. Anch'io qua sono tutto aperto, mi metto l'antenna su guai, è un bel forte. Lo so, però oramai è un mito, quindi non so che fine abbiamo fatto in radio, che cosa abbia combinato, non so. Gianni, Natalino, Luca, ci siete? Presente. Veramente Natali, di Stefano, la mia ha trattato l'antenna. Forse Luca, se c'è, forse c'è, ha chiuso Luca. Ma se c'è Luca, tu dice come ti aveva fatto, cazzo allucinante. E Luca si è addormentato. Aveva rotto le balle, tanto c'è una casa tua. Hai tu ridi, ridi. Ma canta lì della Stefano. Ha cantato l'antenna, ne ha trattato tutto. No. Però hai esagerato, hai rotto le scatole a tutti. E a te carbonate che andate a dare via. Ah, c'è fra palla. Infatti mi spostavo perché lui stava dove c'era Marcolino Giotto, Marcolino Condor, Piero Drago e Tonio Cavasacchi, mi pare facevano ruota sul 20. Allora mi spostavo con Antonio Pomponi sul 14. E ne venivano in attacchivi. E io Antonello la devi mattana, Falco, vai Dini, mi dice di ammonica tutti i disintegrati, vai Dini, non rompermi le scarpe, vai, guarda che sul 20 c'è, ah, lì sono, e allora vado, le faccio il gioco alla cazza e vai, girami le balle, e si andava via, cioè cercavamo di mandarlo via, perché non davamo molta tregua, però Antonello si attaccava un bel caos, Antonello era sempre, mamma mia. Perché non bisognava darle in retta, non è che mi ha finito. Vabbè, ma tu immagini, quando io a Carbonati c'ero io, Antonello, Scoiattolo, Daniela, Carte c'era, eravamo 7-8, non mi ricordo adesso più i nominativi, quindi mi ricordo, te li ho detti, ma eravamo 7-8, e quindi eravamo tutti vicini, perciò non ci rompeva le palle, e quindi facevamo ruota tra di noi, ma c'era ruota sul 20, sul 14, sul 5, sull'8, sul 10, eravamo io, due 300 bassoni prima, non ti credi che eravamo in 5, no, come adesso, E quindi lui entrava ed era una cosa allucinante. Mamma mia, ragazzi. Veramente va bene. Sì, però credo, qui difficilmente trovavi un canale libero, era tanta gente. Io l'ho fatto l'altro giorno a Antonio. Capito? Tu pensa che lui arrivava da me giù al mare, cazzo, passava a Stefano, quando Stefano Piccipedio aveva un Galaxy e poi aveva un lineare, quello del BP 2011 che aveva, beh, non riusciva a passarlo, è incredibile. Stefano c'ha una buona posizione, perché lo so, beh, lui riusciva a passare anche a Stefano, passava a tutti, di budina e cazzo, ti sovrambolava un 5 watt, Anto, ti crepava, ti rompeva le palle, io ero sempre lì attaccato. Vai giù, micidiale, perché era proprio il punto magari dove ha messo l'antenna. Era formidabile, cioè era molto molto forte, non se lo meritava a me. È una zona, è una zona, c'è anche una buona zona, è una buona zona perché non hai ostacoli, è una bassa valle dove le aperture sono buone, molto aperta per dopo le gallerie, per Alghero c'è davanti, hai la zona di Monte Oro che superi, perché c'è il Vargo di Alghero, Porto Torre se ce l'hai davanti, Sassari ce l'hai ai piedi, quindi è vera poco da Yuga, non venuta da va, era una rottura di palle. Tutto da fatti, non che volta che un po' più guarda, allora l'ho sempre detto, la posizione, capito, inutile avere 100 apparati, dove stanno più o meno sono tutti gli stessi, però di avere la posizione e le antenne. Si conferma, antenne, buona posizione, io ti ripeto, da quando sono qua, che prima di prendere la casa, mi avevo studiato tutto perché l'ho sceso, tutti gli strumenti, ho visto, portate, controportate. Mi arrivava la Liguria lì dal piano terra, allucinante. Ecco, insomma, secondo me questa è una buona posizione, infatti ho messo la prima antenna alla Mantova, poi ho iniziato a tirare dei poli, la verticale VU e ho visto che i risultati ci sono, perché ci sono, non c'è problema. Non ho ostacoli grandi, ho Sassari davanti, Alghero sono aperto, per la zona di fuori sono aperto, Porto Torres non si fa vita, cioè sono ottime posizioni, vanno bene. Vado dai signori, che è mezzanotte e quarto, io domani mi avanzare presto. Vi saluto a tutti, grazie alla compagnia, ciao Fabrizio, Antonio, Pierpaolo, Gianni, Luca, Natale, Capodanno e Santo Stefano. Buonanotte a tutti, ci sentiamo domani. Natalizia, esco in moto, già ti chiamo, K. Oh, meno male, io non posso stare fino alle due ascoltando a te. Cazzo, ma io invece ero finito alle due ascoltando a te. La matta dei Nevali, avanti Vittorio, buonasera, buon QRT. Cazzo, che volta sta andando chiusa, non posso stare preoccupato io tutta la sera. Sono arrivato adesso, cazzo, rompi palle. Stavo facendo le chiacchiere, facendo i ricordi di Falcone, Vittorio, raccontami Anto il discorso che faceva Falcone, no, chiudo che mia figlia si ricorica e se faccio casino. Ciao a tutti, buonanotte, vai Vittu. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, strada, mi sentiamo a due. Avanti Vittu. Vada a fare. Luca, c'era un CD prelevato da internet con la voce melodiosa di Falcone. È una scena che... mi stava dicendo Claudio che crepava un bel di gente. Giugendi lì da Gesù, Giuseppe e Maria arrivava per tutto, lo sentivi a Gherocca, Sessardo, a Borva, a Tempio. Andavi, lo sentivi dappertutto, era una cosa incredibile. Che se faceva il gioco della casa agli spagnoli e ai francesi. Tu dove andavi? Andavi? Non sentivi nessuno, non so se sentiva lui, forse anche perché stava, faceva passaggi chilometrici, gli altri stavano meno in frequenza, ma dove andavi? Andavi, giravi i cani, trovavi lì. Perché? E che pantaloni porti? Te li metti? Avevano una posizione paurosa, io ascoltavo da tutte le parti, da Santa Teresa, è impressionante. Io col lavoro che faccio giravo molto la provincia in lungo e largo, ma lui dappertutto è ciopole. E dove sei Vittorio Giove? Girabo Guasso. Certo, la gente che l'avrebbe voluta seriamente una posizione del genere, no? Non ce l'ha mai avuta, Edu Buccarotto. E c'aveva l'antenna dal tetto, alta un metro, ma cazzo, aveva una posizione paurosa. E vedete che è montata, mi sembra che aveva fatto compagno il pianto, così. E tutti gli hanno sistemato, qualcuno andava con la corda a buttarglielo giù, qualche altro glielo sistemava e... Sì, ha avuto la mantova 1, era messa bassa come radiali sul tetto, però quella è una posizione molto libera, capito? Sì, sì, sì. Mi ha dato delle facciate, le mani già aggiustate, già ne aveva tutte, so che stavano bene come tutte. Poi c'aveva dei finali da paura, stava anche che su 40 minuti stava parlando. Sì, è vero, E poi mi chiamava sempre quando quello mi ha rubato un disco, quello non mi ha restituito il nastro, quello mi ha promesso che mi portava in pizzeria, gli ho dato 50.000 lire, dovevamo fare un giochetto, non me ne ha fatto fare. Poi era vero. Sì, davvero, cioè c'erano, tutti una volta stavano facendo denunce, poi ho bloccato, io e gente ho detto che non si rende conto, cioè lo prendono per un ragazzo come tanti, al limite che c'ha qualche vizietto, ma non si rendono conto di cosa. Questo è meglio chiamare la famiglia o chiamare loro e spiegargli che è un ragazzo che c'ha la pensione, che è invalido e che stanno rischiando anni di galera, quindi già sono intervenuto due volte a difendere, casomai più di una volta gente che non meritava di essere difesa, però l'ho sempre fatto. Beh, certo, no. Sì, è così, però vuole anche un po' capito, cioè... Cioè, se fa una cosa del genere, a fine dei conti, sai che ti denunciano e cose ti mettono in galera, cioè non ne vale la pena. Sì, ma molti ragazzetti erano, lui al limite era grande, ma molti erano ragazzini, che gli estorceva soldi, che gli rubava un microfono, che dei dischi, che, capito, se ne approfittavano che era mezzo malato di gabbo e se ne approfittavano, quindi c'era sempre i genitori sul chi va là, pronti a esporre denunce. No, non va bene così. E così lasciatelo stare, cosa le verrà, ma poi sono sicuro, guarda, che se dicevi, oh, fai da bravo, no, non rompere le scatole, se ci mette, io sono sicuro che ci metteva la corda tra le gambe e ci stava anche zitto. Un pezzo di pane, c'era un mezzo fifone, però no, per quello manco. Manca dirlo, sì, no, era una persona squisita da quel punto di vista, che c'aveva teoricamente, perché poi in pratica non aveva mai fatto un tubo, in teoria era più da Arecci, ma se stiamo parlando di un ragazzo malato che sembra preso il sussidio come persona inferma, capito? Sì, sì, certo, certo, neanche capirlo. Però loro si divertivano per ridere, per cosa, lui si incavolava, a me mi hanno detto che si incavolava, poi dopo di un po' restava tranquillo, cioè era una persona un po' strana. No, era l'amico degli amici, gli passava subito, al momento certo si incazzava, poi entrava, ti salutava, gli passava subito, sì. E lì che se ne approfittavano molti, non... mentre lui aveva la pensione. A me infatti mi stupiva che c'è gente che si accaniva proprio contro di lui come se fosse chissà cosa, non si rendevano conto che era un povero ragazzo che è riconosciuto malato, infermo dalle autorità, e gli davano tanto di pensione e d'accompagnamento, capito? Sì. Non era molto molto da prendere in giro, dai. Però che loro si divertivano un po' per l'arrabbiata e basta, sto qua. Io arrabbiato, era da schiattare, insomma. Se non è schiattato quando lì facevano Pizzillollo, Tonino Cavazzacchi, Piero Drago e quella gente, lo va bene a beffa tutti i giorni, se non è schiattato allora non dura 90 anni quel ragazzo. La scena era. Ma adesso magari non c'ha più niente neanche. O non c'ha le radio, sono lì magari, diciamo, se la putti. No, non glielo permette, né il fratello né la cognata, Sorso, ma quando è morta la madre c'era la sorella Sorso, ma non gli permette, no, dopo tutti i casini che ha avuto al baracchino, questa gente proprio andavano lì, corde, a tirargli la corda, a minacciare, a fare proprio, e i veri infermi erano quelli, non lui, e quindi dopo tutte quelle disavventure, telefonate nel cuore della notte, minacce, cose, no? Non glielo permettono proprio di avere un baracchino che per lui era un grande diversivo, cioè. Se fosse stato per lui a quanto detto io, se l'avrebbe rimpiazzato. No, non l'ho detto, se è stato un baretto, uno. Ma poi non dava fastidio a nessuno, trovava il ragazzino, gli dava corda, stava lì, e ti piace quel disco, e vai in discoteca, e quanto sei alto, e cosa fai, e c'hai fratelli, e c'hai sorelle, sembrano questi soliti discorsi, insomma. No, come poi si divertivano a fare, a rompere le scatole, a fargli tutti quello e si incazzava. Ma tu l'hai visto in questi tempi? No, sono un bel po' che non lo vedo, sono almeno 6 mesi che non lo vedo. Provato ultimamente col fratello e la sorella facendo spesa a Città Mercato, ma ci siamo salutati e basta, non ci siamo fermati a parlare, ne avevo fretta io, loro pensano lo stesso, non abbiamo... Però ci ho visto bello in carne, già, sta bene. Sì, so che telefona uno, telefona l'altro, ogni tanto qualche mese fa, mesi addietro, l'anno scorso telefonava parecchio anche qui a parlare con mia figlia, con mia moglie, con me, con mio figlio, eccetera. Ma come l'ultimo anno, diciamo, si è venuti 6-7 mesi non si è più sentito. Perché veniva l'altro e veniva? No, non veniva, ma c'era il numero, chiamava, beh, come sta, sei qui, là, tuo padre, tua madre, tuo nonno, tuo nipote, pinguino, se l'hai più sentito, pinguino della croce, questi discorsi qua, ti devo portare un DVD da vedere, ti ha chiamato mia sorella per il videoregistratore, gliel'hai fatto, non gliel'hai fatto, quanto spende, trattamento, tutti questi discorsi. Se lo ricordo ogni tanto, magari lo difendevi un po', no? Sì, molto, molto. Molto perché ero un grande amico della buona anima del padre, conosco tutti i frati, gente in gamba, lui è stata, sai, ognuno, non si sa perché per come Gesù Cristo ci dà una croce da portare, e la famiglia sua, e l'ha caricata la croce, gli è nato lui, tutti i fratelli, tutta gente diplomata e laureata, ingegneri eccetera, che lavorano in marmo, famiglia in gamba veramente, in mezzo a tante persone in gamba, Gesù Cristo gli ha dato quella croce da portare alla famiglia. Sì, certo, vabbè dai, però lo va bene un po' troppo per provare. Una scena, no, ma è l'eccedere, non è... Ci siamo divertiti, ci abbiamo riso tutti, io lo portavo dappertutto, andavo a casa, ma i familiari quando mi vedevano andavo a prendere una festa in pizzeria, in ristoranti, al mare, partite di calcio, ritrovi di radioamatori, di cibini, roba, l'ho portato dappertutto. per cui diciamo che l'abbiamo fatto svagare, ecco, tutto lì. Si rideva, si scherzava, si facevano foto curiose, eccetera, però insomma sempre con un certo rispetto. Sì, è normale. Beh, Vittorio, mi fai un calore, ti saluto, buonanotte a Fabrizio, buonanotte a te, Vittorio, e buonanotte a tutti gli ascoltatori. C'era, mi sembra, anche Natalino, non so se abbia chiuso, vabbè, buonanotte a tutti i circolari, dai, che me ne faccio tutte 144, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti i circolari, ovali e triangolari, e a Cinzia Mazzura, buonanotte, anche io Vito chiudo adesso, che è tardi, ci sentiamo Vito, buonanotte, alle prossime. Ciao, ciao.